Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Chiara Santilli. Nella vita ci sono soltanto due cose interessanti: la metafisica e i pettegolezzi. In questo aforismo del filosofo rumeno Emil Cioran sono contenuti gli ingredienti fondamentali della vicenda che coinvolge i nostri protagonisti di oggi, persone che hanno fatto dell'amore per l'arte e per il sublime la propria ragione di vita, persone che proprio a causa di una travolgente passione intellettuale e non solo, si sono spesso ritrovate vittime delle chiacchiere insistite di una nazione intera. Oggi, a Destini incrociati, si parla di un pittore e della sua musa. Un rapporto complesso, viscerale, la cui fenomenologia ha segnato le sorti della pittura italiana del secondo Novecento. Per un artista l'ispirazione è tutto. E se questa sorta di magico soffio viene incarnato da una persona, da una figura capace di racchiudere in sé tutte le potenzialità espressive, allora questo qualcuno diventa di importanza vitale, umana ancor prima che artistica. È impossibile credere che un pittore, alla costante e affannosa ricerca di modi per esprimere se stesso, decida deliberatamente di privarsi del suo veicolo privilegiato. Eppure è proprio quello che è successo ai protagonisti di questa storia, o almeno così sembrerebbe. Siamo a Roma. È il 18 gennaio del 1987, sono le prime ore dell'alba. Nel sontuoso Palazzo del Grillo, uno dei più fulgidi esempi di architettura rococò della capitale, il via vai è febbrile. Alte cariche dello Stato, prelati, personalità di spicco del jet set capitolino, si susseguono senza sosta nonostante l'ora insolita. Tra i volti resi ancora confusi dalla penombra si scorgono Giulio Andreotti, Francesco Cossiga, Amintore Fanfani, Nil Deiotti. Solo pochi istanti prima, tra le 3 e le 4 di quello stesso tormentato mattino d'inverno, l'agenzia ANSA, la Presidenza del Consiglio e quella della Repubblica hanno ricevuto la notizia della scomparsa del più grande pittore italiano contemporaneo, avvenuta 45 minuti dopo la mezzanotte. L'Italia perde un simbolo, Renato Guttuso. Renato Guttuso. Alle 11.30 del giorno seguente, il 19 gennaio, la piazza del Pantheon è stipata di gente, accorsa per assistere alla cerimonia laica per commemorare il pittore appena scomparso. Persone comuni, d'ogni strato sociale, si mischiano senza soluzione di continuità a personaggi politici e celebrità d'ogni sorta, giornalisti, studenti di accademie e scuole d'arte, poliziotti e guardie municipali. Tutto intorno, corone di fiori a non finire. Due corazzieri in alta uniforme sorreggono quella del Presidente della Repubblica, contraddistinta dalla grande coccarda tricolore. I telegiornali celebrano l'occasione come un grande evento, benché funebre. Commosso addio a Renato Guttuso, il grande pittore scomparso ieri. In mattinata c'è stata una solenne cerimonia a Roma. La personalità e l'opera di uno dei protagonisti per tanti anni della cultura italiana sono state ricordate da Natta, Bo e Moravia. Nel pomeriggio l'estremo saluto della sua terra natale, Bagheria, dove è stato sepolto. Proprio ad Alberto Moravia, il celebre scrittore romano autore di capolavori tra cui Gli Indifferenti, La Ciociara e La Noia, è affidato il compito in quel freddo mattino di gennaio di salire per primo sulla pedana rossa eretta al centro della piazza del Pantheon. Il suo discorso è certamente il tributo di un artista a un altro artista, ma sono innanzitutto le parole di un amico addolorato. Non sono un oratore, e più che la morte mi interessa la vita. Ma vi voglio raccontare di Guttuso come l'ho visto ieri per l'ultima volta. Aveva in faccia quello strano sorriso di chi se n'è andato e alle spalle c'era un quadro che conoscevo, un paese siciliano visto dall'alto con le sue case, le sue piazze, i tetti, i poggioli. Il quadro era lui stesso, il quadro era vivo. Mi veniva da pensare: che cos'è un artista? Cos'è l'ispirazione? Io credo che sia quella estrema rapidità, quella logica fulminea che permette di compiere un milione di operazioni e di restituirle tutte insieme. Guttuso era un artista, e quando muore un artista, muore il mondo. Moravia parla dell'ispirazione, di quel quid misterioso in grado di affollare i pensieri e la pratica di un artista. Nei suoi ultimi 20 anni di attività, Guttuso ha tratto questa ispirazione da una possente figura femminile, la cui presenza, senza alcun dubbio, ha cambiato la sua quotidianità, oltre che il suo menage pittorico. Eppure, tra le decine di volti che affollano la piazza del Pantheon, non scorgiamo il bel viso incorniciato dai capelli biondi di questa donna. È ancora presto per svelarvi il suo nome, così come è presto per spiegarvi la ragione della sua assenza, dopo un ventennio di presenza assidua, costante, a tratti persino soverchiante. Per capire, è necessario fare un passo indietro e ripercorrere la carriera di Renato Guttuso a partire dalla Sicilia, la sua terra d'origine. Nato nel 1912 e cresciuto a Bagheria, 15 km da Palermo, Guttuso ha origini modeste, ma non misere. Nella casa in cui cresce la pittura e la poesia non sono affatto sconosciute. Renato, insomma, appartiene a quel particolare ceto della società italiana in crescita che attraverso la sua storia specifica ha plasmato l'umanità, descritta da grandi autori come Verga, Vittorini, Sciascia. Gli stimoli che derivano dalla sua terra natale sono e saranno inalienabili per Guttuso. Per un siculo è impossibile non portarsi dentro per sempre un pezzo della propria isola. Tanto calore è la mia gente da dagli denti e la fatica li fa contenti. Sicilia antica, il lume cuore, quanti ricchi da tenito. Ad appena 13 anni, Guttuso firma già le sue prime opere. Si tratta per lo più di piccole tavolette, in cui il giovane copia i paesaggisti siciliani dell'Ottocento. Eppure si può già riscontrare in esse un qualcosa di accattivante, di diverso, rispetto al modello di riferimento. Nel dipinto intitolato Golfo di Palermo, ad esempio, il pittore gioca con le venature caratteristiche del supporto ligneo su cui dipinge per rendere la consistenza delle onde del mare. Non è un caso che la Sicilia sia il soggetto privilegiato dei suoi esordi e lo resterà di fatto per sempre. È sempre presente nel mio lavoro la Sicilia. Nonostante la semplicità di questi soggetti di gioventù, è già possibile riconoscere un talento precoce, innato, destinato a svilupparsi notevolmente negli anni a seguire. Guttuso non ha mai avuto dubbi sulla sua vocazione. Che sarebbe stata la mia vita, l'ho capito quando avevo 15-16 anni. Negli anni dell'adolescenza, Guttuso comincia a frequentare l'atelier palermitano del pittore futurista Pippo Rizzo, avvicinandosi all'ambiente intellettuale che anima la vita del capoluogo siciliano. Nel 1928 prende parte alla sua prima mostra, un'esposizione collettiva nella quale il giovane artista ha la possibilità di esporre i suoi lavori. È il primo vero passo di una fulgida carriera artistica. Nel 1931 Guttuso partecipa con due dipinti alla Quadriennale Nazionale d'Arte a Roma. Qui ha occasione di ammirare dal vivo le opere dei più grandi artisti italiani che lo impressionano profondamente. L'anno seguente l'artista espone alcune sue opere nell'ambito di una mostra collettiva realizzata con la collaborazione di altri pittori siciliani presso la Galleria del Milione a Milano. La mostra suscita grande interesse nella società artistica e intellettuale milanese, con la quale negli anni a venire è destinato ad avere molto a che fare. Nel 1933 Guttuso abbandona gli studi universitari in giurisprudenza per dedicarsi anima e corpo alla pittura. Negli anni che seguono ha modo di frequentare assiduamente gli ambienti intellettuali sia del capoluogo milanese che della capitale. Ed è proprio a Roma che nel 1937 Guttuso sceglie di trasferirsi in via definitiva. L'amata Bagheria non riesce più a contenere il suo talento straripante, oltre che i suoi sogni di gloria. Forse quando io ero ragazzo, quando ero giovane, se uno voleva camminare, bisognava che andasse nel mare più grande. Non... Lo studio romano del pittore diventa uno dei luoghi privilegiati della vita culturale del paese. Il fecondo scambio di idee con i colleghi acuisce il suo senso estetico e il suo spirito critico. Guttuso ama la pittura dei suoi contemporanei, ma non manca mai di gettare un occhio alla tradizione, non solo per puro compiacimento visivo, ma spesso come vero e proprio spunto per migliorare se stessi e la propria tecnica, come lui stesso ad affermare. Un artista guarda alle opere del passato che lo interessano, che lo attraggono, e il modo più suo di capire è quello di cercare di rifare un certo processo, di vedere, di analizzare. Disegnando si analizza molto bene. C'erano dei vecchi storici dell'arte i quali andavano a vedere le opere e se le disegnavano. Perché disegnando un quadro, guardandolo per copiarlo, si scoprono una infinità di cose. I primi anni romani vedono nascere importanti amicizie. È in questo periodo che Guttuso conosce Alberto Moravia, l'amico di una vita intera, l'uomo che nel 1938 lo presenta ai giornalisti Antonello Trobadori e Mario Alicata, due figure che si rivelano fondamentali per l'accendersi della passione politica nel pittore. Nel corso degli anni 30, l'Europa, dunque anche l'Italia, ha assistito pressoché impotente al consolidarsi del potere di Adolf Hitler e Benito Mussolini. A partire dal 36 in Spagna, infuria la guerra civile, che vede contrapporsi le forze del legittimo governo repubblicano, fortemente spostato a sinistra, a quelle militari e conservatrici che fanno capo al futuro dittatore Francisco Franco. Nonostante l'aiuto internazionale dato ai repubblicani, la guerra si conclude nel 1939 con la vittoria dei falangisti del Generalissimo, appoggiato sia dalla Germania nazista che dall'Italia fascista. Anche il poeta Federico García Lorca cade vittima della ferocia sanguinaria dei franchisti. Sul dramma della guerra civile spagnola, con particolare riferimento ai bombardamenti aerei condotti dalla Luftwaffe nel 1937, Picasso dipinge il suo celeberrimo Guernica. Il mondo artistico non può, non vuole, non riesce a stare indifferente agli scempi che conducono la modernità verso l'inevitabile scatenarsi della Seconda Guerra Mondiale. Lo sdegno di Renato Guttuso nei confronti di ciò che accade in Europa si traduce nel 1940 nella sua adesione al Partito Comunista. Insieme ad alcuni artisti della scena milanese, tra i quali spiccano Giacomo Manzù ed Emilio Vedova, Guttuso segna idealmente il passaggio dagli anni 30 ai 40, costituendo con il movimento che prende il nome di Corrente un ponte ideale tra artisti ideologicamente impegnati e ansiosi di commentare, attraverso le opere, gli avvenimenti tragici di quei tempi. La solidarietà artistica tra colleghi è imprescindibile, in un momento storico tanto duro, e l'apprezzamento di Guttuso della pittura altrui è sincero, addirittura fondamentale per lo sviluppo della propria. Io amo la pittura e dunque di conseguenza amo la pittura degli altri, perché la mia non è qualche cosa di fuori di me, è qualche cosa che, come se dicessi io amo il mio braccio, non posso dire amo il mio braccio, amo i miei capelli o amo le mie ginocchia, no? È qualche cosa che mi appartiene, con la quale vivo, che cresce. Posso dire forse che amo il processo attraverso il quale faccio della pittura, ma non riesco a vederla fuori di me e quindi amo la pittura degli altri. A questi stessi anni, tormentati dai primi sintomi della guerra, risale l'incontro con la futura moglie, Mimì Sedotti. La circostanza è singolare, romantica come solo le vicende d'altri tempi sanno essere. Avviene al termine di una serata trascorsa nel salotto di una nota marchesa romana. Il pittore si offre di riaccompagnare Mimise a casa, a Palazzo Ruspoli, edificio antico, celebre e monumentale. Su Roma è appena scoppiato un violento temporale. Nell'aprire il portone in tutta fretta, per evitare di bagnarsi, Mimise fa cadere le chiavi. Il pittore le raccoglie, le infila in tasca con gesto fulmineo, forse involontario, certamente sintomatico. Gottuso quella sera si mette in tasca l'occasione per rincontrarla. È così che ha inizio quel ménage sentimentale tra i due che al termine della guerra viene sancito dal matrimonio. Mimise appartiene a una famiglia benestante del nord Italia, originaria delle zone tra Pavia e Milano. È alta, slanciata, distinta, eccezionalmente bella. Più vecchia del pittore di 7 anni, è già stata sposata una volta con il conte Antonio Bezzi Scali. La relazione col primo marito però è naufragata e l'incontro con Guttuso si rivela decisamente felice. Renato, che predilige le donne mature, longilinee e dal passo sicuro, ne resta letteralmente sedotto, come lui stesso a raccontare. Mimise era straordinariamente bella. La gente restava col fiato sospeso quando passava per le strade di Roma, altera e distante, come una regina. Guttuso si trova in uno stato di grazia che si riflette dalla sua vita personale al suo lavoro. Mimise è l'amica e la modella, la compagna e l'ispiratrice. Renato la ritrae con amore, rendendola sulla tela ancora più bella e affascinante, trasfigurandola, regalando al suo volto una parvenza angelica soprannaturale. È così che lui vede Mimise, una figura concreta, imprescindibile, eppure in un certo senso distante, evanescente, non fatta di carne e ossa, ma posta su un piano diverso, traslato rispetto a quello del pittore. A partire dai primi anni 50 e lungo i 2 decenni successivi, archiviati fascismo, guerra e sacrifici, l'Italia conosce il boom. I tempi magri sono finalmente finiti. Nel mondo in generale, e in quello dell'arte in particolare, tutti si affannano a comprare. I quadri sono diventati una merce preziosa. Può anche darsi che il consumismo favorisca la caduta rovinosa di certi valori, ma è proprio questa supposta decadenza a portare con sé denaro, benessere, ricchezza. Guttuso è tra i pittori più ricercati. Le sue tele sono in testa alle vendite, contese tra galleristi, musei, neoarricchiti e ricchi storici appartenenti all'alta borghesia salottiera. Ed è proprio da quest'ultima che proviene la donna destinata a sconvolgere sul finire degli anni 60 la vita artistica e sentimentale di Guttuso. Dopo un ventennio di pace e prosperità, di amore per Mimise, successi artistici e commerciali, è lo stesso Guttuso ad avvertire il bisogno di un cambiamento. In certi momenti della vita si ha bisogno di qualcuno o di qualcuna che ci dia uno scossone. E questo mi è accaduto intorno ai 60 anni. Io mi disponevo a vivere di rendita su me stesso. Avevo bisogno di essere aiutato a riprendermi, ossia di essere scosso. In quel momento è arrivata questa persona. Dopo quell'incontro è arrivata una nuova serie di oli e di disegni. Quello che chiamavo l'archetipo, l'ideale generico che si ha in testa, si è concretizzato in una persona, la quale è diventata a sua volta l'archetipo. Non Mimise, dunque, fedele compagna di una vita dalle fattezze diafane e altere, ma una donna reale, capace di risvegliarlo dal suo torpore esistenziale e pittorico. Questa figura femminile è una delle punte di diamante del jet set italiano, sposata a un conte, dunque contessa. La sua storia è fuori dal comune, così come lo è la sua energia. Non è difficile credere che Renato Guttuso sia rimasto completamente scioccato da tanta carica umana, artistica ed erotica. Non puoi più pretendere di avere tutti quanti attorno a te. Non puoi più trattare i tuoi amanti come fossero mignè. Vuoi solo le cose che non hai. Parli delle cose che non sai. Cerchi di giocare ma non puoi. Pensi solamente ai fatti tuoi. Chi sei? Contessa, tu non sei più la stessa. Vuoi che io rimanga nel tuo letto per poi sbattermi su e giù? Non ti lamentare se domani non ti cercheremo più. Ma vorrei soltanto averti qui. Sei a accattivante già così. Ti difendi con il DDT, fai pensare troppo coi tuoi sì. Ogni cosa di concreto sia da riferire a te. Tu fai la misteriosa per nascondere un segreto che non c'è. Ma nel tuo castello come va? Vivi la tua vecchia nobiltà. Non sai neanche tu la verità. Vendi a chiaro prezzo la realtà. Destini incrociati. Destini incrociati oggi è a Roma, città in cui fin dai tempi degli antichi romani il pettegolezzo si mescola volentieri all'arte e al potere. Il potere lo sanno sempre gli altri se tu hai potere, tu non lo sai mai. Parola di Renato Guttuso. Alla fine degli anni 60 è il maggiore pittore italiano in attività, conteso da critici, galleristi e compratori. Eppure non è soddisfatto, né sente di avere tra le mani il potere che tutti sembrano attribuirgli. Il periodo dorato di Guttuso e della moglie Mimise, coinciso con il boom generale dell'economia e della società italiana, subisce nel 69 una svolta improvvisa e imprevedibile. Proprio in quell'anno, il pittore incontra nella capitale una persona conosciuta per caso alcuni anni prima a Milano. Una donna destinata a sconvolgere la sua vita e il suo matrimonio, l'esistenza quotidiana e il lavoro, imprimendo un nuovo corso alla sua pittura. Il suo nome era ed è tuttora sulla bocca di ogni cronista mondano che si rispetti. La signora in questione è Marta Marzotto. Marta Marzotto. Allora, nata nel segno dei pesci, figlia di un casellante delle ferrovie, c'è un po' tutta una storia attorno a questo personaggio che fra poco saluto, che è un personaggio, potremmo dire, battuta, devo dire, abbastanza banale, va bene? Cioè, da mondina a mondana. Una contessa, la più mondana, la più amata, la più fotografata, la più, più grande ispiratrice di uno dei più grandi pittori. Questo breve ritratto riassume le caratteristiche salienti della salottiera più famosa d'Italia. Ma se vogliamo conoscerla meglio e soprattutto scoprire la genesi del suo rapporto con Renato Guttuso, è necessario fare un passo indietro e ripartire dalle umili origini della futura contessa. Tralasciamo per un istante la mondana e ritorniamo dalla mondina. Marta Vacondio nasce il 24 febbraio del 1931 a Reggio Emilia. I genitori sono un casellante delle ferrovie e una mondina. L'infanzia e l'adolescenza le trascorre a Mortara, in Lomellina, dove lavora fin da giovanissima come mondina, seguendo le orme della madre. I Vacondio sono poveri, così poveri da non potersi permettere di mangiare regolarmente, come ricorda la stessa Marta. Abbiamo fatto una fuga all'Emilia con un mulo cieco da un occhio, non ti dico, sembravamo la Sacrada Famiglia. Da Reggio Emilia a Mortara, siamo arrivati, abbiamo fatto pena, non so, una signora ci ha regalato un chilo di pane, l'abbiamo mangiato io e mia madre, siamo finiti, ci hanno fatto la lavanda gastrica. All'alta, bionda ed esuberante Marta, l'accoppiata mondina Lomellina sta stretta. La ragazza vuole a tutti i costi sottrarsi alla sua condizione di povertà. Sognavo molto a occhi aperti. Sapevo che non volevo rimanere dov'ero, com'ero, però in realtà non ho mai pensato, non ho mai fatto un calcolo. Sognavo così. Alla giovane e bellissima Marta capita l'occasione di entrare nel mondo della moda e intraprendere la professione di indossatrice. Il lavoro come mannequin presso la sartoria delle sorelle Aguzzi a Milano le consente di conoscere e frequentare la buona società del capoluogo lombardo e di incontrare il suo principe azzurro, il conte Umberto Marzotto. Biondo, alto, intelligente, colto, sportivo, nobile e possessore di un cognome illustre nell'ambito dell'industria tessile italiana. Praticamente l'uomo dei sogni. Umberto nota Marta una sfilata e le concede di fare un vero e proprio balzo nell'ascesa sociale. La giovane abbandona la passerella e si avvia nella navata di una chiesa. A soli 23 anni diventa la moglie del conte Marzotto, nonché, in futuro, la madre dei suoi 5 figli. Umberto è l'uomo che la salva dall'indigenza, l'uomo che le insegna tutto, l'uomo accanto al quale Marta impara davvero a camminare. Respirerò l'odore dei granai. Pace per chi ci sarà e per i fornai. Pioggia sarò e pioggia tu sarai. Dotata di una vitalità scalpitante, Marta dà a Umberto un figlio dopo l'altro. Eppure la prole, la cura dei figli e i doveri familiari che ne conseguono non le impediscono di condurre una vita sociale attiva e brillante, né di continuare a richiamare l'attenzione su di sé, imponendosi via via come una vedette della mondanità italiana. Ed è proprio in una di queste occasioni mondane che la Marzotto, all'inizio degli anni 60, incontra per la prima volta Renato Guttuso. È il luglio del 1960. Siamo nella casa milanese di un noto fotografo e giornalista. Marta è col marito. Aspetta il terzo figlio, Vittorio, il primo maschio dopo Paola e Annalisa. Il padrone di casa, che è solito procurare opere d'arte agli amici, mostra agli ospiti alcuni disegni e dipinti. A Marta indica un olio dal titolo «I naufraghi». «Mi piace molto», esclama la Marzotto. «Daglielo, ne farò un altro», replica immediatamente l'autore del dipinto in piedi accanto al padrone di casa. L'intesa tra Marta e Renato è immediata, ma in questa occasione si limita all'apprezzamento di un dipinto. Per l'incontro vero e proprio è necessario spostarsi avanti di qualche anno e tornare a Roma, città d'elezione del pittore siciliano. L'incontro vero e proprio tra Marta Marzotto e Renato Guttuso avviene nel 1969, nello studio del pittore che da qualche anno si è trasferito a Palazzo del Grillo. Marta Marzotto è con il regista Valerio Zurlini, vincitore a Venezia nel 62 con Cronaca familiare, interpretato da Marcello Mastroianni, nonché grande ammiratore di Guttuso. Insieme a loro c'è anche la moglie, Mimise Dotti. è la prima volta che le due donne si incontrano, la prima e l'ultima che si incontrano a Palazzo del Grillo. Già da quel momento nasce fra loro, più da parte di Mimise che non di Marta, una rivalità destinata a protrarsi praticamente per un ventennio. Molti anni più tardi, Guttuso, ricordando la genesi di un suo dipinto, ripercorre l'avvento della Marzotto nella sua vita e l'irruzione della sua figura mitica nella sua pittura. L'idea era quella di un quadro che rappresentasse una visita al mio studio, all'Imbrunire, ma non riuscivo a mettere a fuoco il personaggio, finché ho avuto una vera e propria visione, una tigre. A posteriori, analizzandola come simbolo, direi che la tigre è diventata subito qualcosa di più, una visitatrice che arriva portandomi la sua bellezza, ma naturalmente anche la sua ferocia. Nonostante la nuova arrivata abbia nell'immaginario del pittore l'aspetto fiero ed emancipato di una tigre, l'atteggiamento iniziale di Renato nei confronti di Marta è protettivo, vagamente moralistico. In alcuni dei primi disegni la raffigura come una creatura indifesa nella selva del mondo, assediata dai demoni. Nella prima delle innumerevoli lettere che le scrive, le si rivolge con sincera preoccupazione. Vorrei avere tue notizie. Che ti hanno fatto? Ti hanno fatto soffrire? Non voglio, non posso pensare a questo. Con te ho passato i momenti di più straziante felicità. Ma questa donna indifesa, assediata dai demoni, si trasforma lei stessa in un demone per il pittore. Irrompe nei suoi album e nelle sue tele come un turbine, figurandovi in tutte le pose, in tutti gli atteggiamenti, nelle forme più libere e audaci. Il suo volto, che nel suo primissimo ritratto era una maschera bianca e vuota, enigmatica, unicamente incorniciata dai capelli, acquista via via lineamenti ed espressioni, in una variazione continua di gioioso e malinconico, sereno e angosciato, dolce e aggressivo, felice e infelice, seguendo il mutare degli umori del pittore e della sua modella e amante, testimoniando sulla tela o sulla carta l'andamento del loro rapporto. Il corpo di Marta esplode. Si fa contemporaneamente oggetto d'amore e di desiderio erotico, di vero culto che tende all'estasi, all'ossessione, al delirio. Guttuso è di nuovo all'apice del suo estro creativo. Quando la pittura è brutta non c'è cosa più brutta, quando è bella non c'è cosa più bella. Se per Guttuso si tratta di una vera e propria svolta nella carriera pittorica, anche per Marta l'inizio della liaison rappresenta una svolta, innanzitutto sentimentale. Nessun uomo l'ha mai amata e l'amerà come Renato. Un amore e una passione che si innalzano fino a diventare pura poesia. Poesia, poesia, sembra che non ci sia. Poi ritorni per caso a quando eri bambina. E tu, tu correvi cantando, sorridevi per niente e potevi volare, e tutto questo era poesia. Sembra che non ci sia, poi ti prende la mano e ti porta lontano con lui. E non sei più bambina, non sorridi per niente, scopri d'essere donna e tutto questo è poesia. Poesia, poesia, sembra che non ci sia. Poi ti svegli una notte e vorresti parlare con lui. Gli dovresti spiegare, tu non sai cosa dire. È finito l'amore, ma in fondo anche Destini incrociati. Siamo a Roma, iniziano gli anni 70. La vita del più celebre pittore italiano vivente, Renato Guttuso, è divisa tra due donne. La prima è la moglie Mimise, la seconda è la contessa Marzotto. Il matrimonio dell'artista, a onta della sua irrequietezza sentimentale e professionale, è destinato a durare tutta la vita. Il bruciante e intenso rapporto con la contessa più chiacchierata d'Italia, invece, pagherà lo scotto dei pettegolezzi, delle invidie, delle intrusioni altrui. Ma è ancora presto per parlare dei punti oscuri. Torniamo ai fulgidi momenti del sodalizio artistico, prima ancora che amoroso, tra Marta e Renato. L'avvento della Marzotto nella vita di Guttuso ha ripercussioni anche sulla logistica di Palazzo del Grillo. L'appartamento al primo piano dell'antico stabile, adibito a studio del pittore, è il regno dell'arte, delle sperimentazioni artistiche amorose. È il regno di Marta, insomma. Al piano di sopra trionfano invece il rigore, la disciplina, la consuetudine coniugale sotto la giurisdizione di Mimise. Una semplice rampa di scale unisce e divide due regni attigui, eppure separati e incomunicabili, tra i quali il pittore è costretto a dividersi. Nulla di ciò che accade al primo piano deve trapelare al secondo. La tensione tra i due regni è incessante, la suspense degna delle migliori pellicole di Hitchcock. La servitù viene addestrata e continuamente perfezionata nell'arte della menzogna e della reticenza. Tuttavia, nonostante gli sforzi e le accortezze, pettegolezzi e malignità sono all'ordine del giorno. Marta Marzotto, allenata tigre da salotto, non si fa certo spaventare dalle malignità. Dopotutto, non esiste in Italia una maggiore autorità in materia. È lei la massima esperta in fatto di oculata gestione dei rapporti sociali. E cosa si dice in un salotto? Di cosa si parla in un salotto? Di tutto. Di tutto. Non hai idea quante notizie... No, qualche idea ce l'ho, sì. E volevo sentirla da lei. La prossima volta la invito, vieni. Non lo so, signora, non so se il fisico me lo consente di partecipare, di stare appollaiato, di stare appollaiato, perché poi deve chiamare. No, vuol dire 113 che evito di invitare due persone, evito lei. E invita me, ecco, la ringrazio. Come spazio. Occupo il minimo. E come ogni celebrità che si rispetti, anche Marta Marzotto ha la sua parodia, la sua caricatura. Diamo il benvenuto anche alla contessa Marzotto. La ringrazio. In un certo senso si può dire che lei mi abbia strappata ad una delle mie solite serate, però sono lo stesso felice come una scimmia di essere qua. La gestione della socialità a Palazzo del Grillo è assai complessa. Persino gli ospiti dei salotti sono divisi a seconda del piano che frequentano. Nello studio del pittore si discetta di cultura, arte, filosofia, politica. Al piano di sopra, le amiche e confidenti di Mimise sorseggiano tè spettegolando e perdendosi in frivolezze. Di nuovo, due universi contrapposti, ma adiacenti. Palazzo del Grillo nasconde, sotto la struttura imponente e i portali maestosi, sotto la veste di sontuosa dimora di un artista di chiara fama, una realtà ben diversa. Tra gli antichi muri abita una sindrome di dissociazione dell'io, forse addirittura lo specchio di un'isteria collettiva. Le sue decorazioni eccessive e rococò altro non sono che la rappresentazione simbolica di una situazione intricata, prossima all'area della patologia, destinata a dar vita a mirabili prodotti artistici, ma anche a situazioni di vita a malapena sostenibili. A metà degli anni Ottanta, dopo un ventennio di salti mortali finalizzati al mantenimento dell'equilibrio di un ménage che più squilibrato non si può, il rapporto tra Guttuso e la Marzotto comincia a mostrare segni di cedimento. Stesa sul filo di una gloria che non c'è. Perso di vista Nell'autunno del 1986 Mimise muore improvvisamente a causa di un ictus cerebrale. Anche Guttuso è malato. Ha da poco scoperto di avere il cancro. Marta lo vede per l'ultima volta il 26 settembre. La contessa promette di restargli accanto fino all'ultimo. Il fido segretario del pittore, Fabio Carapezza, consegna alla Marzotto la chiave dell'atelier di Palazzo del Grillo, apparentemente per rendere più agevoli le sue frequenti visite. Ma quel 26 settembre è l'ultimo giorno in cui Marta vede Renato. Quella chiave non apre nessuna porta. La Marzotto è forzatamente esclusa dalla vita e dalla cerchia degli affetti del pittore. A nulla valgono le continue telefonate, le insistenze, i tentativi di mediazione. Le viene riferito sempre da terzi, sempre in maniera piuttosto brusca e sbrigativa, che il pittore non vuole vederla. L'ostracismo nei riguardi di Marta è inspiegabile, data l'importanza che la donna ha avuto negli ultimi 20 anni di vita personale e lavorativa di Guttuso. Anche Alberto Moravia, carissimo amico di entrambi, fatica a trovare un senso a questa situazione. L'ultima volta che sono riuscito a vedere Renato Guttuso era alla fine di settembre. Noi eravamo stati molto amici da giovani. Negli anni della guerra ci vedevamo tutti i giorni, poi era rimasto come un grande affetto a distanza. Non è nella logica comportarsi in questo modo con una donna di cui si è stati innamorati. In realtà per me il vero punto scuro di tutta la vicenda è proprio la storia di Marta. Il 15 ottobre, in compenso, Guttuso avvia la procedura per adottare il fedelissimo segretario Fabio Carapezza, presentando la richiesta alla prima sezione del Tribunale Civile di Roma. Dopo un'udienza interlocutoria arriva la sentenza di adozione, che reca la data del 25 ottobre. 10 giorni appena. Si tratta, con tutta probabilità, dell'iter più fulmineo mai avvenuto nella storia della magistratura civile italiana. Il 14 gennaio Guttuso detta al notaio il testamento. Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria a favore di chiunque e in qualunque forma redatta. Desidero che la mia successione venga regolata per legge. Guttuso se ne va il 18 gennaio. Fabio Carapezza, il figlio adottivo, ne diventa l'unico erede legittimo. La Marzotto, ormai esclusa dai giochi, apprende la notizia alla radio. Nei giorni seguenti rilascia alla stampa dichiarazioni ferite e inferocite che fanno divampare la polemica. Si sente avvilita, tradita, cancellata. I giornali non fanno altro che parlare della scomparsa del pittore, della misteriosa fine del suo rapporto con la contessa, di tutte le implicazioni che concorrerebbero a trasformare questa vicenda in un gustoso romanzo giallo. L'Unità, giornale di riferimento del Partito Comunista, in cui Guttuso ha militato per oltre 40 anni, pubblica una nota il 24 gennaio alludendo a ciò che la stampa va blaterando sui rapporti tra il pittore e la Marzotto. Le scelte personali, gli affetti, le relazioni, la vita privata di Guttuso uomo non possono appartenere agli interessi di un partito politico cui si addice solo il rispetto e il silenzio. Il PC ha onorato uno dei grandi della cultura e dell'arte di questo secolo, rivendicando orgogliosamente di aver avuto nelle sue file come militante e dirigente Renato Guttuso. Tutto il resto appartiene alla sfera più intangibile della libertà dell'individuo, di ogni individuo. Forse è tempo di spegnere la polemica e lasciare che l'artista parli solo attraverso quello che di lui ci resta, i suoi meravigliosi dipinti, le tele su cui ritraeva la sua personale visione del mondo. Io credo alle cose, credo al mondo, credo alla realtà e cerco di rappresentarla nel modo più, diciamo, più umile di fronte alla realtà, ma anche più convinto. Alla sua morte, Guttuso ha lasciato incompiuto un solo, grande quadro, il cui eloquente titolo è «Le donne vanno e vengono». Potrebbe forse esistere un lascito più profetico e rivelatore di questo? Comunque vada, darò un sorriso al niente, o ruberò al vento un'acqua di silenzio, amerò le mani tese sui capelli, pugni in testa, il buio ingiusto della mia malinconia. Malgrado tanto, io sciolgo ancora idee, come lacci di scarpe, inutile follia. Aver badato al mio starnuto, al chiasso dei suoi panni stesi e l'alba ria. bianca si frantuma. In un istante un grido, svaniscono parole quasi mute, immagini sfinite, il sole.